I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra. Gli slogan sono gli stessi, ma questa non è la voce della Germania che invocava la caduta del muro di Berlino. Questa è la voce dell'estremismo di destra di oggi, quello che in Germania fa sempre più paura, quello che riempie le piazze nei raduni di Pegida, quello che nella sua dimensione più violenta porta ad attentati, come ad Halle, quello che spinge la città di Dresda in Sassonia a proclamare lo stato d'emergenza neonazista e il paese a sollecitare una linea di contrasto, come già avvenuto per il terrorismo islamico. Schiacciati dietro le transenne urlano «Noi siamo il popolo», i sostenitori di Pegida, in questa fredda sera di novembre. È un lunedì e, come tanti altri, i militanti del gruppo di estrema destra si ritrovano davanti alla cupola della Frauenkirche, la cattedrale luterana di Nostra Signora, il centro della città. Sono soprattutto uomini di mezza età, applaudono il leader Lutz Bachmann mentre lancia strali contro l'Europa e soprattutto contro la politica dell'accoglienza. Questa città, la Firenze sull'Elba, come è chiamata Dresda, è diventata la capitale dell'estrema destra e qui ora lo senti che l'atmosfera è cambiata dopo l'attentato contro una sinagoga nella vicina Halle. In questa regione dell'est ora i simboli possono diventare un pericolo. Devo dire che io vado sempre in giro con la kippah e fino a non molto tempo fa qui a Lipsia era assolutamente normale. Solo dopo l'attentato di Halle la gente nota la mia kippah. Resta meravigliata, sorpresa, forse anche spaventata. Ho fatto caso ai loro occhi. Fino a 2 mesi fa non avrebbero fatto caso a cosa indossassi in testa. Ma cosa posso fare? Io sono ebreo. C'è una camionetta della polizia davanti alla sinagoga di Lipsia, mentre incontriamo Zolz Ball, il rabbino competente su Halle. La protezione è stata assegnata subito dopo la strage. Ora all'interno della comunità ebraica molti stanno pensando di andare altrove, visto anche il clima politico dell'area. Ma qui quello che soprattutto è cambiato è l'atmosfera. Leider brauchen wir einen Schutz, aber gleichzeitig ich wünsche mir ein Europa. Purtroppo abbiamo bisogno di una protezione. Vorrei che non solo qui, ma in tutta Europa, noi potessimo vivere la nostra fede senza pericoli. Questo è un problema globale. Noi viviamo in una comunità di stati e tutti insieme dobbiamo prendere atto che negli ultimi anni ci sono stati molti attentati contro le sinagoghe da parte di gente armata. È una tendenza in atto nel mondo e noi dobbiamo prima di tutto riconoscere questa tendenza. Tutti noi, a cominciare dagli stati europei, dobbiamo ammettere di avere un problema, che è l'estremismo di destra. La comunità europea deve comprendere che anche se sono gli ebrei ad essere minacciati, alla fine tutti ci ritroviamo feriti. Dopo l'attentato di Halle, ma anche dopo le elezioni in Sassonia, Turingia, Mecklenburgo, molti anche della mia comunità hanno detto di non voler restare qui, ma di trasferirsi in Israele. Ma non è questa la soluzione. Non possiamo sempre scappare. Noi desideriamo un'Europa in cui nessuno debba essere in pericolo per la sua fede. Questo vaso di Pandora è stato aperto da precisi fattori, a cominciare da un certo populismo e da una certa demagogia. Pandora's box wurde geöffnet, wo bestimmte Sachen. Tra le strade di questa città è diventato ad un certo punto evidente quello che da anni tutti sanno. Le violenze di matrice politica stanno aumentando e Halle è stato solo l'ultimo più drammatico e simbolico attacco, preceduto dal primo delitto di un politico dalla matrice eversiva fin dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Aggressioni, ma anche accoltellamenti e omicidi. Dal 2015 in Germania c'è stato un incremento di reati riconducibili a quell'area dell'estremismo di destra che nell'intero paese, secondo le stime della polizia, conta 12.700 militanti. Tra i gruppi neonazisti, Atomwaffen-Division, Old School Society, Combat 18, Gruppe Freital. In forte aumento, soprattutto le violenze contro esponenti politici, 1256 solo l'anno scorso, e la maggior parte, 517, riconducibile all'estremismo di destra. Tra i casi peggiori, l'attacco alla candidata sindaco di Colonia, Henriette Reker, da parte di un estremista di destra. Poi, nel luglio dell'anno successivo, la strage di Monaco. Ragioni xenofobe spingono un uomo ad uccidere 9 persone prima di suicidarsi. In quello stesso anno, anche un poliziotto è stato ammazzato da un estremista di destra trovato in possesso di armi illegali. È stata invece la politica di accoglienza verso i migranti la causa dell'accoltellamento del sindaco di Altenaer. In un crescendo di violenza tra il 2018 e il 2019 si sono consumati gli episodi più cruenti. Un omosessuale torturato a morte da neonazisti in Sassonia, un politico della CDU, Walter Lübcke, ammazzato con un colpo di pistola alla testa nello stato dell'Assia da Stefan Ernst, terrorista di estrema destra. Proprio come Stefan Balliet, che a Halle, in Sassonia, dopo aver tentato un'irruzione nella sinagoga, ha ucciso 2 passanti. Sembra così difficile mentre attraversiamo la piazza del mercato di Dresda, ammiriamo la Frauenkirche o i fasti del Sempre Opa, sovrapporre questa cartolina barocca con l'immagine che vediamo a sera, quando sullo sfondo della Frauenkirche si radunano centinaia di estremisti di destra. E se Dresda è il volto più visibile di un movimento in crescita, quando si esce dalla città verso i villaggi la situazione peggiora, fino ad arrivare a Chemnitz, dove un gruppo è stato fermato mentre progettava un massacro, qui dove un altro gruppo neonazista, gli Skinheads Sächsische Schweiz, inneggiava alla violenza, conferma Marco Lasche, portavoce della polizia di Dresda. L'estremismo di destra qui a Dresda si è ridotto. Avevamo avuto un gruppo neonazista che inneggiava la violenza. I capi sono stati arrestati e sono sotto processo e il gruppo è stato messo al bando. E da allora tutto il mondo dell'estremismo di destra qui si è ridotto. Abbiamo qui i sostenitori di Pegida che tornano a incontrarsi quasi ogni lunedì. Ma loro non hanno comportamenti violenti nei raduni, comunque restano sempre molto controllati dalle forze dell'ordine. In questi anni ai raduni più simbolici abbiamo visto sempre migliaia di persone, ma invece ai ritrovi del lunedì, quelli cioè più frequenti, come sono i numeri? Negli anni scorsi avevamo anche oltre 20.000 persone che qui marciavano insieme a Pegida. Col tempo sono diminuiti anche i più assidui. Al momento registriamo circa 1 migliaio di presenze ogni volta. Da 20.000 a 1.000 è già una fortissima contrazione. Questa è la situazione più visibile qui a Dresda, ma se si va verso Chemnitz o ancora di più, se si lascia la città verso i piccoli paesi, cambia qualcosa? Lì com'è la situazione? Di certo, rispetto all'estremismo di destra, si avverte una differenza tra la città di Dresda e dintorni. Qui in città abbiamo molti meno estremisti da tenere sotto controllo. Non marciano per le strade, non fanno saluti romani, né intonano slogan, ma restano in gruppi nascosti. Nei piccoli paesi, nei contesti di campagna, questo cambia. E questi gruppi di estremisti sono molto più evidenti e spavaldi. Si mostrano con più facilità. E su un borgo di 1 migliaio di abitanti, 50 neonazisti sono una percentuale significativa. A Dresda, ovviamente no. Queste sono le differenze. Così vista da qui, dalla capitale del barocco, la discussione sul problema neonazisti dà fastidio. Macchia l'immagine, dicono in tanti. Un tema che abbiamo sentito ripetere e quante volte anche da noi in Italia a proposito del racconto della presenza della criminalità organizzata. Ma vista la natura e la dimensione internazionale dell'estremismo nero, con contatti oltreoceano dalla Germania col gruppo Atomwaffe, non pochi qui ritengono che bisognerebbe mettere in campo gli stessi strumenti usati nella lotta al terrorismo islamico, ma i più preferiscono parlare invece della capitale europea della cultura. E da qui ripartono tra pochissimo i racconti di storiacce. Questa canzone è dedicata a tutti i bambini cui i genitori hanno una Jeep e che vengono portati a scuola anche quando fuori c'è una bufera di neve. Siamo con voi, ragazzi. Non tutti i genitori guidano una Jeep. Solo a febbraio, zero anticipo e zero interessi. Jeep Renegade, da 249 euro al mese. Jeep Compass, da 299 euro al mese. TAN 0 TAIG 1,31. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Info e condizioni su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica. Jeep, there's only one. I racconti di Storiacce. Da un lato le bandiere di Pegida, i cori, le invettive sovraniste contro i migranti, contro l'Europa, contro i partiti della grosse coalizione. Dall'altra, separati solo da qualche transenna e da un ridotto spazio di sicurezza, tanti cittadini comuni dietro lo striscione no al razzismo, no all'odio. È successo ad ottobre, sempre a Dresda, quando il movimento di estrema destra ha convogliato ancora più militanti per onorare i suoi 5 anni di attività. E anche se ufficialmente bisogna sempre tenere distinta le dimensioni politica da tutti i gruppi clandestini e dai loro intenti violenti, per le strade della città della Sassonia è ben chiaro a tutti che quello che si vede e quello che si complotta non di rado nel chiuso delle chat o quello che ora viene processato nelle aule del tribunale proprio qui non può essere così distinto. Man muss da unterscheiden zwischen Menschen mit einem rechtsextremen Weltbild und mit Menschen, die wirklich gewaltbereit rechtsextrem sind. Bisogna distinguere tra estremisti di destra e autentici gruppi pronti alla violenza. Di questi ultimi, in Sassonia si stimano circa 2.500 persone, nella città di Dresda tra 250 e 300. Più del doppio, invece, i simpatizzanti politici dell'estrema destra. Alexander Schneider è il Polizei Reporter, il cronista di nera, diremmo noi, del Sächsische Zeitung, il principale quotidiano locale. E in questi anni ha visto aumentare la violenza di matrice politica, come la tensione intorno all'estremismo di destra, palpabile anche nelle minacce ai giornalisti. E non si meraviglia, Alexander, che nell'aula dove si sta celebrando qui il più importante processo ad una cellula neonazista che progettava un massacro a Berlino, non ci sia così tanta attenzione e preoccupazione da parte della gente. Der Prozess hat Anfang Oktober angefangen. Il processo al gruppo della cosiddetta rivoluzione Chemnitz è cominciato a ottobre contro 8 membri. 8 giovani tra i 21 e i 30 anni. Avevano intenti terroristici. Volevano uccidere delle persone a Berlino. Un politico di sinistra in una scuola e stranieri per strada. Creare il terrore per sovvertire l'ordine e il sistema democratico. Questa, perlomeno, è l'accusa. Non è il primo gruppo terroristico di destra. Negli ultimi anni qui in Sassonia ne abbiamo avuti almeno altri 2. Uno è Old School Society, attivo tra il 2010 e il 2015 nei dintorni di Lipsia. Anche loro avevano pianificato attentati. Il secondo è il gruppo di Freital, città della Sassonia, i cui membri sono stati condannati nel 2018. E c'è anche un terzo gruppo, l'NSU, il Nationalsozialistische Untergrund, sotterraneo, considerato responsabile di 10 omicidi. Qui a Dresda, ogni febbraio, da almeno una 20 anni, si ripete il ritrovo di migliaia di estremisti, anche da altri paesi, per ricordare il bombardamento e la distruzione della città durante la Seconda Guerra Mondiale. I cittadini poi, da almeno 5 anni, assistono quasi ogni lunedì ai ritrovi di Pegida e quindi non sono più interessati a seguire il processo ai vari neonazisti. Preferiscono piuttosto parlare di Dresda, del barocco, della capitale europea della cultura. Die wollen das gar nicht haben, die wollen lieber ihr schönes Dresden und ihr Barock und. Lungo Hammerweg, al civico 26 di Dresda, ora è tutto tranquillo e la nebbia autunnale avvolge questa periferia dove 8 giovani vengono processati con l'accusa di aver pianificato delitti contro stranieri e politici mossi da ideologia neonazista. Qui dove un altro gruppo terroristico, Freital, è stato condannato, qui dove 9 anni sono stati inflitti ad un siriano per l'omicidio di un tedesco che ha innescato la reazione dei più estremisti. Qui ora il silenzio attutisce tutto, ma dietro questa grande porta è ogni giorno sempre più evidente come la violenza neonazista non sia solo un fantasma remoto. E l'analisi della portavoce della polizia di Dresda lo conferma, Marco Lasche. Sotto la nostra competenza non c'è alcuna struttura organizzata. Abbiamo gruppi con simpatie estremiste, ma se parliamo di gruppi con ruoli, organizzazioni e chiari intenti di azione, no, non ne abbiamo. Abbiamo appunto persone vicine all'ideologia di estrema destra e senza dubbio sono da tenere sotto controllo. La rivoluzione Chemnitz è stata un altro gruppo strutturato, individuato e smantellato. Aveva progetti di violenza, di attentati nelle città. A Dresda non ci sono stati arresti, ma qui ora si sta celebrando il processo. Qui episodi di violenza con matrice politica contro stranieri, ad esempio, sono un'eccezione. Ma ogni caso è sempre troppo. Ovviamente nessuno di noi, né come cittadini né come poliziotti, vuole che Dresda abbia nel mondo questa immagine di città, capitale dell'estremismo di destra. Dresda è una bella città che merita di essere conosciuta così. Marco Lasche, rispetto ai vari gruppi neonazisti già smantellati da voi, cosa dicono le indagini? Come avveniva il reclutamento dei membri e come definivano incontri e azioni? Abbiamo visto nelle indagini che questi gruppi estremisti si danno appuntamento sul web, con i social media, comunicano per organizzare ritrovi. Abbiamo ovviamente reparti specializzati che studiano e seguono questi movimenti sul web e le loro comunicazioni. Altrettanto, ovviamente, bisogna specificare che loro si trovano in gruppi chiusi sulle chat, ma sappiamo che la polizia li monitora e che è ugualmente esperta nell'uso di queste piattaforme digitali. Da buon militare, Marco Lasche, portavoce della polizia di Dresda, riconduce tutto a numeri e circostanze precise. E anche senza sminuire la portata del fenomeno, si concentra sui passi avanti fatti, soprattutto in città. E se in città la maggior parte delle persone preferirebbe non ammettere l'esistenza di un problema neonazista, il primo passo è sempre la consapevolezza dell'emergenza. Emergenza neonazismo, l'ha ribattezzata l'amministrazione approvando un'ordinanza che ha spaccato il fronte politico. Ma era un messaggio necessario considerando quanto successo ad Halle, sentenzia Dietrich Hermann, ricercatore universitario molto attivo nella mobilitazione anti-Pegida già all'interno del gruppo Dresda Nazi Frei, ossia Dresda libera dai nazisti. Wir haben in Dresden weiterhin ein Problem. Wir haben Nazis in der Stadt, nicht wenige. Abbiamo un problema neonazisti. Ci sono, non sono pochi, e quindi è giusta questa dichiarazione d'emergenza per prendere atto dell'esistenza del problema. E il sindaco e l'amministrazione devono occuparsene. Dresda si prepara a essere la capitale della cultura europea nel 2025 e anche noi, come cittadini, dobbiamo molto chiaramente prendere posizione contro questa tendenza estremista. L'attentato di Halle ha sconvolto molte persone. Potrebbe succedere anche qui a Dresda. E allora bisogna essere molto vigili, non solo con misure di polizia, ma anche osservare i dibattiti che si sviluppano, le parole che si usano. Io stesso, come molti, sono stato nella sinagoga per portare la mia solidarietà. Sono gesti e simboli molto importanti. È scavallato il lunedì di Pegida quando a sera solo le note di un solitario musicista si diffondono nelle strade settecentesche della città. La Frauenkirche torna ad essere uno dei simboli di pace e riconciliazione della Germania e non più il palcoscenico di estremisti che fanno leva sulla drammatica storia di Dresda, quasi rasa al suolo il 13 febbraio del 45 durante un terribile bombardamento della RAF britannica. La cattedrale luterana di Nostra Signora non fu colpita direttamente allora, ma crollò giorni dopo per gli effetti di un drammatico incendio e per 45 anni è rimasta solo uno scheletro, per poi essere ricostruita, come gran parte della città, dopo la riunificazione della Germania e col contributo di tanti altri paesi, diventando così un simbolo di pace. I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra. In regia Filippo Aureggi. Potete riascoltare tutte le puntate in podcast sul sito radio24.it. Fateci avere commenti e segnalazioni sulla pagina Facebook di Storiacce e seguiteci su Instagram e Twitter all'account @RaffCalandra.